Giovani talenti. Giovani talenti di Sergio Nava. Mi ha dato la Cina quello che non mi ha potuto dare purtroppo l'Italia. Mi dispiace perché io veramente amo l'Italia. Io ci vivrei, cioè, ci tornerei su domani in Italia, però non è il momento adesso. Penso che il problema principale dell'Italia è che si parla e si parla. In Cina parlano e dopo 2 anni ti costruiscono una città da 100.000 persone. Quando sono venuta qui ho trovato un posto modernissimo, tutto nuovo, tutto molto ordinato, si sta bene, tutto a portata di mano, tutto facile. Buongiorno e bentrovati all'appuntamento settimanale con Giovani Talenti, voci della nuova emigrazione. La nostra copertina è interamente dedicata allo splendido documentario Abbondanza di frutta, che racconta gli italiani residenti nella provincia cinese del Guangdong. Documentario realizzato da Emma Rossilandi e Alberto Vendemmiati. Molti giovani laureati italiani si sono spostati in Cina alla ricerca di lavoro, trovandovi un paese in pieno sviluppo, pieno di occasioni per dimostrare il proprio valore e conquistarsi una posizione economica sicura. Questo il claim del progetto, che ci introduce a una puntata a sfondo assolutamente orientale. Restate sintonizzati. Brain drain. I don't know if this is a problem. Let me be very frank. La frase della settimana è copyright del premier Matteo Renzi nella recente intervista a Cristiana Mampora della CNN. Non so se il brain drain sia davvero un problema, ha detto Renzi a un'incredula a Mampora. Non è un problema se parte degli italiani lascia il paese, dice Renzi. Non chiedo agli italiani espatriati di tornare, ma di aiutarmi a portare l'Italia nel futuro. Una frase che contiene, a nostro modesto parere, solo una mezza verità. Giusto chiedere una mano e una riconnessione ai nostri talenti all'estero, ma da qui a definire il brain drain un non problema, beh, ce ne passa. Oltre 6 imprese su 10 hanno scelto lo scorso anno il personale da assumere partendo da una conoscenza diretta del candidato, ovvero utilizzando canali del tutto informali quali il passaparola. Solo nell'1,8% dei casi le aziende si sono rivolte ai centri per l'impiego. E quanto emerge dai dati del sistema informativo Excelsior, l'utilizzo di canali informali per la selezione del personale contribuisce certamente a quella asimmetria informativa che penalizza il merito e le capacità, in particolare dei giovani lavoratori, ha evidenziato il segretario generale di Unioncamere, Claudio Gagliardi. E noi, nell'attesa che le cose cambino, ci spostiamo in Cina. Dall'Italia tutti se ne vanno perché i salari non sono altrettanto alti, le responsabilità non sono altrettanto alti, la libertà di movimento non è la stessa. Carolina Di Vonzo, 31 anni, è a capo del Dipartimento di Proprietà Intellettuale presso Tektronic Industries a Hong Kong. Della sua storia parleremo tra pochi minuti, ora spazio al notiziario. Il 90% di un campione di 800 neolaureati è disposto a lasciare l'Italia sia per esplorare nuove esperienze formative sia per cercare opportunità di lavoro, lo rivela un sondaggio KPMG. Il 62% degli intervistati ritiene che il bel paese non sia in grado di offrire opportunità professionali interessanti, insomma non è attrattivo. Per il 45% l'università italiana ha un livello qualitativo insoddisfacente. E quali sono le città più costose dove vivere per gli espatriati? Secondo Mercer, per un manager il costo della vita più alto lo si registra a Luanda, N'Djamena e Hong Kong. A seguire Singapore, Zurigo e Ginevra. Il 2013 è stato un anno record per il flusso di immigrati dall'Unione Europea verso la Svizzera. Tra le nazioni che hanno maggiormente incrementato la propria presenza nella Confederazione Elvetica spicca l'Italia, seconda per saldo migratorio solo al Portogallo. 12.400 il saldo tra italiani emigrati in Svizzera e controesodati. La crisi ha bruciato oltre 2 milioni di posti di lavoro tra gli under 35. In soli 6 anni, secondo l'Istat, i giovani occupati sono scesi a poco più di 5 milioni. Continuiamo a parlare di lavoro con il lancio di un sito il 6 novembre che promette di far incontrare la domanda e l'offerta di impiego a livello globale. Il progetto è italiano. La Giovani Talenti, l'AD, è fondatore di Face for Job, Alessio Romeo. Face for Job è una nuova piattaforma digitale che ha lo scopo di riprodurre le logiche dei processi di recruiting, quindi far sì che possa sostituire quella fase iniziale che comporta un grande lavoro massivo ma necessario ai fini del colloquio di persona. Face for Job ha un approccio globale. Come può essere d'aiuto a quei giovani che in questo momento stanno cercando lavoro all'estero? Allora, Face for Job il 6 novembre lancerà una nuova piattaforma

Tra le 5 W questions, l'unica ad apparirmi chiara e distinta era What? Cosa io volevo, ovvero andarmene dall'Italia per rincorrere il mio sogno e diventare una ballerina. In una settimana organizzai il viaggio e spiccai il volo per Londra, da sola, senza sapere a cosa sarei andata incontro. Mi allenai con impegno e costanza fino al giorno dell'audizione alla London Contemporary Dance School. Mi ritrovai in una sala con tanti altri ballerini che, come me, avevano appeso al body un numerino che ci identificava. Quel giorno capii il vero significato della legge di Darwin sulla sopravvivenza. I più forti vincono sui più deboli, che sono destinati a soccombere. Decisi quindi di assumere il ruolo del leone che mangia la gazzella. Un mese più tardi ricevetti la lettera di ammissione per il successivo triennio accademico. Ma non è tutto oro quel che luccica. Dalla mia piccola città ho dovuto fare i conti con la vita frenetica di una metropoli. Ho sperimentato per la prima volta la solitudine, che come una bestia affamata si nutriva ogni giorno dei miei stati d'animo positivi, fino a provare solo tristezza, angoscia e nostalgia di casa, che mi hanno portata a ritornare in Italia a fine febbraio, anziché rimanere a Londra come programmato. Questa mia esperienza di vita è solo una piccola perla, che forma una collana di tante altre piccole perle di giovani artisti italiani costretti ad emigrare. Nel nostro paese l'arte non è riconosciuta ufficialmente come una vera professione. Gli artisti che decidono di rimanere in Italia sono spesso indotti a fare più lavori contemporaneamente, vivendo nella precarietà del domani. Il nostro governo dovrebbe incentivare le professioni artistiche, valorizzando le ricchezze che abbiamo e facendo risorgere la cultura, che è l'unico mezzo per sensibilizzare le persone, per renderle umane e capaci di provare sentimenti elevati. Ammetto con grande rammarico che tutto ciò mi ha portato a provare un certo rancore verso l'Italia, poiché mi induce a ripartire per Londra, lasciando il mio cuore qui, alle persone che amo. Un motivo per restare o tornare. È stato pubblicato sul sito del Ministero del Lavoro e sul sito Garanzia Giovani il decreto che regola l'intervento bonus occupazionale. Attraverso questa misura, volta a favorire le assunzioni a tempo indeterminato e determinato, sarà erogato un incentivo economico ai datori di lavoro privati che assumono under 30. L'importo complessivo ammesso a disposizione ammonta a quasi 190 milioni. E per interagire con noi potete collegarvi online su Facebook, nel gruppo Fuga dei Talenti o nella pagina Fuga dei Talenti. Potrete rispondere alle discussioni del mese che rilanciamo anche sul gruppo La Fuga dei Talenti all'interno del portale professionale LinkedIn. Potete pure contribuire al blog aperto all'indirizzo radio24.ilsole24ore.com/blog/nava. È aperta l'iniziativa hashtag collegata a Fuga dei Talenti. La stringa del mese è Riforma Lavoro. Dibattetene in 140 caratteri. Siamo allo spazio Interactive. Ogni ultimo sabato del mese leggiamo le vostre lettere in onda. La discussione di ottobre. La riforma del mercato del lavoro entra nel vivo. Stavolta ci credete? Basta una seria riforma del mercato dell'impiego per evitare la fuga all'estero? Come dovrebbe essere, secondo voi, questa riforma? E per frenare l'esodo di giovane capitale umano dall'Italia, cosa serve in più? Per condividere idee, proposte e denunce nel nostro forum scriveteci giovanitalenti@radio24.it. Vi ricordiamo infine che siamo sempre alla ricerca di nuove storie da raccontare. Se siete under 40 ed espatriati, potete candidarvi a giovanitalenti@radio24.it. Finisce qui questa puntata di Giovani Talenti. Aspetto dunque i vostri contributi via email. Vi ricordo infine che questo programma può essere riascoltato sul sito www.radio24.it. Ci sentiamo sabato prossimo alle 13.30, sempre su Radio 24. Un saluto e un augurio di buona settimana da Sergio Nava.